Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Alle 8:30 minuti, una buona giornata, puntuali. Partiamo per una nuova puntata di Si può fare. Buongiorno Carlo. Buongiorno Laura, sono qui a casa mia, ma faccio gli stessi movimenti che facevo quando venivo in studio. Mi sembra anche quasi di averti qua davanti. Ma metterò un cartonato, sai, forse no, potrebbe essere un'idea, perché anch'io mi trovo a parlare con una sedia vuota, quindi insomma mi fa un po' impressione. Invece se tu potessi mandarmi una tua fotografia, potrei metterla qua, così, cioè avere l'impressione, ecco, che tu... La mando di sicuro, guarda, adesso sono indeciso se mandarti il mio cartonato o quello di Churchill, col quale giravo in tournée quando andavo a presentare il libro, quando ancora potevamo muoverci. Mi imbarazzerebbe meno il tuo, diciamo così, ecco. L'altro mi farebbe sentire un pochino in soggezione, ecco. E vabbè, senti, ci siamo andati a letto con una gabbia un po' grandina, ci siamo svegliati con una gabbietta un po' più piccola, ma resistiamo, siamo sempre sul pezzo, siamo sempre con voi. Sì signori, resistiamo assolutamente. Ho visto anche la foto lì dalla regia con le mascherine e insomma mi sembra che siamo pronti prontissimi per una nuova puntata. 824 0024 è il numero verde per prenotarsi. Oggi c'è il famoso indovinello, bisogna indovinare il personaggio della settimana, uomo, donna, cosa, avvenimento, basta che sia relativo a questa settimana e che abbia compiuto un qualche tipo di buona azione, che abbia portato una buona notizia, insomma sapete un po' l'ambito. 824 0024, poi come sempre 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, già ne arrivano e sicuramente gli ascoltatori soddisferanno anche qualche nostra curiosità e noi speriamo di poter soddisfare le vostre e portarvi ovviamente un pochino di sollievo in queste giornate difficili. Carlo, diamo il primo indizio, che dici? Certo che sì, diamo subito il primo indizio. Come già ricordiamo sempre, ovviamente non si vincono biglietti per il museo in questo momento che non si può uscire, ma si vincono dei libri, quindi verrete contattati dalla nostra redazione poi per mettervi d'accordo sulla spedizione. Esattamente, il primo indizio è solidale. Il personaggio della settimana è solidale. Pensateci bene e prenotatevi all'800-24-0024 per darci la vostra risposta. Che cosa ci consigli questa settimana, Carlo? Guarda, questa settimana, insomma, lo sappiamo tutti, sono settimane difficili. Nel poco spazio che il coronavirus lascia alle notizie non terribili, ci sono ovviamente le gare di solidarietà, i gesti belli, il tentativo continuo di mantenere un'unione fra tutti noi umani. Poi ci sono le notizie sugli animali. Abbiamo visto, ho letto tutti delle scimmie che in Thailandia sono tornate in città, i cervi per le strade cittadine del Giappone, le volpi qui nei centri abitati europei. Di questo poi ne parleremo anche durante la puntata, ma forse perché, come vi ho detto la settimana scorsa, sto leggendo Harari, che è straconsigliato, sia Sapiens, breve storia dell'umanità, sia la sua più recente storia del futuro, che si intitola Homo Deus, 2012-2016, entrambi editi Bompiani, che ha un'ottica profondamente evoluzionistica, ma tutte queste immagini di animali nelle città mi è impossibile non interpretarla come l'avanzata delle altre specie, come un riappropriare di spazi da cui erano stati cacciati, approfittando del nostro momento di debolezza. E detto così non sembra una gran buona notizia. Ciò che trovo in qualche modo tranquillizzante, però, è che spessissimo ci siamo trovati a dire ci vorranno secoli per riparare ai danni della cementificazione, prima che ricresca un albero in questa zona, eccetera, eccetera. Ed è vero, lo sappiamo, per riparare i nostri danni ci vorranno effettivamente migliaia di anni. Ma la natura è una forza che noi stentiamo a immaginare, e queste immagini ce l'hanno mostrato. E per rimanere in tema anche con la rubrica domenicale, giustamente vi consiglio Notte sul pianeta Terra, che è una serie documentario in 6 puntate che trovate su Netflix. Non sono né esperto né appassionato di documentari naturalistici, ma questo devo dire che è pazzesco, perché, come ci ricorda spesso la bella voce narrante di Alessandra Mastronardi, mostra immagini che nessuno può aver mai visto, per il semplice fatto che prima non esistevano esisteva la tecnologia adatta. Grazie a termocamere e telecamere di ultima generazione a sensibilità ultra elevata, questa serie ci mostra ciò che accade nel mondo animale durante la notte. Ed è una sorpresa via l'altra. Sono 6 puntate per 6 habitat diversi. Se, come me, non siete fanatici solo di animali, iniziate dall'episodio su cosa fanno gli animali mentre le nostre città pensano di dormire tranquille. È una bella scoperta che può aiutare la convivenza. Ma non è inquietante, Carlo, no? Quello che fanno gli animali mentre noi dormiamo. No, ovviamente quello sulle città è un pochino più, ma non inquietante, è molto interessante perché si vedono città in cui gli orsi vanno a mangiare, ci sono città in cui gli elefanti in un certo giorno dell'anno devono passare perché la città è stata costruita esattamente sul loro passaggio che fanno tradizionalmente sempre per spostarsi da un luogo all'altro. Quindi in realtà secondo me dà delle interessanti e importanti regole di convivenza, cioè renderci conto che su questo mondo non ci siamo solo noi, diciamo, noi comandiamo sicuramente, noi abbiamo deciso che siamo i più forti o forse abbiamo anche dimostrato di essere da un certo punto di vista i più forti, i più organizzati e sicuramente i più distruttivi, però bisogna convivere con tutti gli altri, adesso allora, forse bisogna convivere anche con un virus. Sì, a distanza, ricordiamoci, sempre a distanza. Certo. Invece io ti voglio portare adesso con il nostro ospite su una questione che in questi giorni è ovviamente una situazione, ecco, che in questi giorni tutti noi abbiamo vissuto, quella della coda a distanza ovviamente l'uno dall'altro per entrare nei negozi che sono aperti perché sono i servizi essenziali come ad esempio i supermercati, alcuni alimentari, le farmacie. Ecco, a proposito proprio farmacie, c'è Marco Tortorici, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a chi vi ascolta. Farmacista di Fiumicino, buongiorno. Che sta utilizzando una app che si chiama You First per regolare, no, l'ingresso in farmacia, per evitare queste lunghe code, e anche perché, il che vale sia per non perdere tempo sia per non rischiare contagi, no? Sì, in realtà diciamo l'utilizzo di questa app fa parte di un novero di iniziative che sono 5 che stiamo mettendo in piedi, che abbiamo messo in piedi nel tentativo non solo di limitare la possibilità di contagio, ma possiamo dire che con le attività che abbiamo messo in essere azzeriamo assolutamente la possibilità di contagio per i nostri utenti, e quindi laddove ci fosse interesse da parte vostra molto rapidamente ve li vorrei illustrare. Sì, se ci riesce a essere molto rapidamente, sì, certo. Rapidamente, allora YouFirst, di cui intanto queste 5 iniziative sono tutte frutto dell'ingegneria dell'ingegno italiano, quindi sono felicissimo di poter dire che l'Italia da sola è riuscita a mettere in piedi un sistema capace di difendere anche luoghi dove c'è promiscuità e c'è forte afflusso. E le 5 iniziative essenzialmente che abbiamo messo in piedi sono queste. YouFirst, come voi accennavate, è una piattaforma che permette da remoto di poter prendere il numero, ci si mette in coda in modo virtuale, si ha la contezza di quante persone sono in attesa e si ha la possibilità di utilizzare il tempo di coda per il trasferimento, si parcheggia, si scende e dopo pochi minuti si viene serviti. Questa è una scoperta dell'ingegner Roberto Macina, un ingegnere informatico giovanissimo, che ci permette appunto di velocizzare e di azzerare la promiscuità e la prossimità tra le persone. Mi permetta di aggiungere che questo ovviamente è possibile per tutti, non è che è stata fatta per voi, ecco. No, diciamo, noi come farmacia siamo stati i primi a essere accreditati, oltre ai soggetti canonici e classici che erano soggetti ad alta affluenza come gli ospedali, i poliambulatori, quindi diciamo noi abbiamo avuto l'onore da loro di essere accreditati come soggetto che potesse, come farmacie, poter utilizzare la loro tecnologia. Ovviamente altri seguiranno e non vantiamo l'esclusiva di questa è ovvio. Poi ci spiega anche a noi con precisione, cioè come funziona per un utente che volesse venire nella sua farmacia a Fiumicino, che cosa si deve scaricare e come fa a mettersi in coda? Da Play Store o da App Store, ovviamente a seconda della tipologia di cellulare che si possiede, si scarica questa app YouFirst. Che è scritta con la U, voglio ricordare, U, non esatto, U come tu, ma U semplice. U come Udine, quindi U First, supremo sarebbe, ma in realtà esattamente, e si ha la possibilità di vedere intanto se c'è fila, quindi potrebbe anche l'applicazione dirti recati in farmacia, non c'è coda, quindi rasserena anche sulla condizione che poi troveranno, no? Perché uno immagina chissà cosa troverò, invece già sa che magari in quella fascia oraria non c'è molta coda, o altrimenti dice stacca il tuo biglietto virtuale, quindi la piattaforma entra in rete col nostro elimina code e accredita l'utente da remoto come fosse, come se avesse un braccio lunghissimo capace di schiacciare quell'elimina code in farmacia. Quindi quei 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti in questi giorni di fila vengono utilizzati per il trasferimento e per... È come se ognuno di noi a casa avesse tutti i distributori del bigliettino e dice adesso prendo quello della farmacia, guarda il proprio numero, dice ah sono il 27, se non sbaglio l'app ti dà anche un'indicazione di orario, quindi quando verrà servito il 27, sì. E uno a quel punto invece che uscire alle 3 del pomeriggio e mettersi in coda e poi essere servito alle 5 e un quarto, esce alle 5 e alle 5 e un quarto viene servito. Perfettamente, e la soddisfazione poi di mostrare al farmacista non il pezzettino di carta ma il telefonino, quello vediamo dagli occhi dei nostri clienti, veramente una grande soddisfazione. Non c'è neanche lo spreco della carta, così proprio per essere si può fare fino in fondo. Esatto. E poi molto rapidamente abbiamo attivato un servizio che si chiama PharmaDrive, le nostre gestanti e i nostri invalidi in prossimità della farmacia schiacciando un pulsante e segnalano la loro presenza, per cui i farmacisti assicurano all'esterno il loro servizio facendo rimanere queste persone, diciamo, che vengono considerate in fascia protetta, rimanendo nell'abitacolo, e anche questo permette l'isolamento o comunque la non promiscuità di persone che si trovano in una condizione di particolare che si trovano in una particolare situazione, certo. Particolare. Poi abbiamo attivato il PharmaBox, che è un'altra frutto della tecnologia italiana, la possibilità sempre da app, in questo caso da WhatsApp, ordinare prodotti che non siano farmaci, trovarli in questo box all'esterno della farmacia, pagare col POS e ritirare. Questo si fa da soli senza avere nessuno nel raggio di un metro sicuramente. Eh certo, è un po' come andare a prendersi il pacco, no? In quel... Esatto, quella è stata l'ispirazione. E poi nei prossimi giorni attiveremo tutto i nostri impianti di illuminazione con una tecnologia italiana che si chiama BioVite, lampade capaci ovviamente di illuminare ma anche di emettere con una lunghezza d'onda particolare, un'onda in grado di disinfettare completamente gli ambienti e le persone. BioVite? Quindi si entrerà BioVite, questo è un altro frutto della ricerca italiana che volevo appunto... segnalare. Ha fatto benissimo anche perché credo che tutte queste iniziative che voi avete preso possano essere, no, mutuate da altri, e quindi a parte l'illuminazione ovviamente che richiede tempi più lunghi per l'installazione, ma insomma tutto il resto può essere sicuramente di ispirazione per altre farmacie ma anche per altri esercizi commerciali in questi giorni. Sì, e nel frattempo noi, proprio perché ancora l'illuminazione non è attiva, stiamo assicurando il nostro servizio in esterno, quindi i farmacisti sono su strada e non facciamo entrare le persone in farmacia. E l'ultimissima cosa, una società che si chiama VJ Technology ha messo a disposizione, nostra disposizione, come ha già fatto con la Protezione Civile e con la Croce Rossa, una app che si chiama Wear App, un po' ispirandosi a WhatsApp, accreditandoci come soggetto certificato, per cui la farmacia riveste un ruolo di informazione nei confronti della popolazione, capace in tempo reale di poter dare un allarme. Questo è molto importante perché, essendo soggetti certificati, nel caso la situazione dovesse evolvere in qualche modo, in modo imprevedibile, siamo in condizione in tempo reale di avvisare tutti i nostri cittadini. Wear App, e questa è un'altra cosa bellissima che si può fare, visto le tecnologie che a volte sono croce delizia, insomma, fanno tutte e due le cose, come sappiamo. Sì. Bene. Grazie Marco Tortorici, buon lavoro a Fiumicino nella sua farmacia. Carlo, ci fermiamo un attimo per la viabilità, subito dopo torniamo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco la nostra prima concorrente per l'indovinello della settimana, è Marcella dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Marcella. Allora, chi buongiorno. È secondo lei? Buongiorno. Il personaggio che è solidale. Ah, ho pensato a Ursula von der Leyen perché questa settimana ha preso una decisione solidale con l'Italia, oltre che con tutta l'Europa, ovviamente. Allora, la Presidente della Commissione europea, tra l'altro, ha avuto parole anche ieri di conforto per quanto possibile per l'Italia, di vicinanza, e ha preso appunto queste alcune decisioni importanti da un punto di vista economico. Sentiamo un po' cosa dice la nostra regia. Purtroppo non è lei, ma Marcella, grazie molte per aver tentato, per aver partecipato. Allora, buona giornata, grazie, buon ascolto. Grazie. E allora andiamo al secondo argomento di giornata. Carlo, anche tu avrai letto, no, spesso in questi giorni, della relazione possibile, probabile, chi lo sa, da indagare tra forti livelli di inquinamento e diffusione di Covid-19, no? Sì, ho letto anche parecchie smentite, quindi sono molto curioso di questo tema. Sicuramente c'è un problema in generale per le nostre città, che sono sicuramente troppo inquinate rispetto ai livelli che possiamo sopportare. Sicuramente c'è un'alta relazione tra l'inquinamento e alcune malattie, e questo è uno dei temi che vengono affrontati in un articolo che Francesco Ferrini, docente del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze, ha esaminato. Francesco Ferrini, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, mi fa molto piacere che lei sia con noi oggi. Appunto, lei questo articolo già l'aveva pubblicato la settimana scorsa, poi nel corso della settimana ci sono stati molte discussioni, addirittura abbiamo visto ieri delle smentite, ma insomma sicuramente, no, c'è un problema nelle nostre città, un problema di inquinamento, e un problema che può essere affrontato con delle infrastrutture verdi. Cosa sono le infrastrutture verdi? Non c'è dubbio che il verde possa aiutarci, e diciamo, il rapporto tra inquinamento e la comparsa di certe malattie respiratorie, non necessariamente legate al Covid-19, è chiaramente dimostrato da ricerche che ormai vanno avanti da oltre 30 anni. Cosa sono le infrastrutture verdi? Sono quelle che Mi scusi, come smentite, per le smentite ovviamente parlavo solamente della questione del virus. La correlazione fra inquinamento e malattie terribili e anche morti certi è assolutamente assodata e non va smentita. No, certo, non avevo sentito quello che aveva detto, non c'è dubbio. Il problema è che noi con l'inquinamento siamo più suscettibili a malattie cardiovascolari, a malattie dell'apparato respiratorio, e di conseguenza siamo anche suscettibili al Covid-19. Appunto, non c'è una relazione diretta, o meglio, ancora non è stata dimostrata. Comunque, tornando al discorso di infrastrutture verdi, diciamo, non dobbiamo intendere solo quelle che rientrano nella classica definizione che l'Unione Europea ha dato, cioè una rete di aree naturali e seminaturali che è pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, che è progettata e che è gestita in modo da fornire un ampio spettro di quelli che sono chiamati servizi ecosistemici, cioè tutti i benefici che la natura dà all'uomo. Intendiamo appunto con infrastrutture verdi tutte quelle aree che possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria. Ovviamente questo miglioramento è la soluzione per contrastare non solo tutte queste malattie conseguenti, ma anche per ridurre un po' quelli che sono i problemi legati all'attuale società. È ovvio che questo fatto di creare, di pianificare, di progettare e realizzare infrastrutture verdi non deve farci dimenticare che la misura inderogabile è quella di ridurre le emissioni di inquinanti. Su questo non c'è alcun dubbio. Certo che un verde urbano ben pianificato, progettato e gestito, e non sostegno urbano, anche periurbano, appunto ben gestito, può avere un impatto sostanziale su quello che è il risparmio di vite e anche di denaro, perché migliora ovviamente la qualità dell'aria, migliora la qualità della vita e poi ha tutti gli effetti anche su quelli che sono, diciamo, i cambiamenti climatici o i fenomeni legati al cambiamento climatico. Quindi è Professore, le devo chiedere di fare attenzione perché ogni tanto perdiamo la linea, quindi tenga bene il telefono vicino. Che probabilmente è un problema di linea proprio stamane. Peccato. Comunque abbiamo capito, per carità, però appunto ogni tanto perdevamo qualche pezzettino. Tra l'altro io ricordo che noi anni fa parlammo in un'altra intervista di quali benefici un verde urbano ben progettato, ben curato, poi una volta in cui è stato predisposto, quali benefici possa dare appunto sulla salute anche psicologica, no? C'erano tutti lei mi aveva citato molti studi che vengono fatti su pazienti ricoverati che hanno la possibilità di uscire o di vedere comunque il verde, e anche sulla sicurezza dei cittadini, cioè attraversare un parco ben curato è più sicuro che attraversare una discarica, ecco. Sì, contrariamente a quello che si pensa, mi ha detto che c'è dei vuoti, spero che non ci siano ancora. Mi ha detto che appunto il fatto che il verde sia ben curato è fondamentale in questo senso. Se un parco per essere inteso come un parco ben gestito, ben curato e frequentato, perché spesso noi abbiamo la concezione, anche la sensazione, che nel parco ci sia meno sicurezza. In realtà è dimostrato anche questo da studi ormai decennali, che un parco ben curato è frequentato e quindi vissuto è un deterrente per quelli che vengono a commettere reati. Quindi c'è un aumento della sicurezza e la percezione della reale sicurezza in un parco ben curato, ed è appunto dimostrabile frequentando parchi ben curati, ben gestiti e soprattutto ben pianificati. Sì, ecco, noi continuiamo a sentirla purtroppo a strappi, però appunto lei mi ha confermato quello che io ricordavo, che un verde ben curato è un beneficio sotto tanti aspetti, dalla salute alla sicurezza dei cittadini. Le volevo chiedere quando si dice un verde urbano ben progettato, in che cosa dobbiamo pensare, cioè in che cosa si evidenzia una buona progettazione del verde? Chiaramente questo è fondamentale, perché ha un impatto sostanziale sul risparmio di vite. Mi spiego meglio. È chiaro che noi dobbiamo, adesso nell'epoca moderna, abbiamo la possibilità di accedere a tantissimi dati, dobbiamo esplorare quelli che vengono chiamati i big data, no? Quindi possiamo sapere, per esempio, dove c'è un maggior problema di malattie respiratorie, un maggior problema di malattie cardiovascolari, un maggior problema anche di delinquenza o di problematiche sociali. In questo modo, sovrapponendo i vari layer, vengono chiamati questi dati, possiamo sapere esattamente dove il verde può essere realizzato e dove si possono massimizzare i risultati di certi impianti. È chiaro che il verde richiede un investimento economico, adesso siamo in una fase di crisi acutissima, ne usciremo, sono sicuro, e ne usciremo anche pensando a quello che potrà essere il futuro, pensando anche agli errori che abbiamo commesso nel passato. Einstein diceva che non possiamo pensare di cambiare le cose ripetendo gli stessi errori che abbiamo fatto nel creare certe problematiche. Quindi bisogna un pochino cambiare anche la nostra forma mentis, utilizzare le tecnologie che sono a nostra disposizione anche per il verde. Piantare un albero pare una cosa semplice, in realtà non lo è affatto, richiede a monte tutto un lavoro importante, richiede anche diverse professionalità che insieme lavorano per migliorare poi il verde. Professore, la ringraziamo e consigliamo, la salutiamo e consigliamo a chi volesse riascoltare, lo so la qualità audio di questa chiamata non era buona, ma se la riascoltate in podcast sicuramente riuscirete a cogliere tutte le parole del professor Ferrini, che è stato in collegamento con noi, Università di Firenze. Grazie, buona giornata, e diamo il benvenuto al prossimo ascoltatore, che è Stefano dalla provincia di Catanzaro. Sente? Stefano, buongiorno, la sentiamo. Buongiorno. Allora, ci dica un po', chi è secondo lei il personaggio della settimana che corrisponde alla nostra descrizione? Allora, io ho pensato al personale che è stato sanitario, che è stato invitato a ritornare in servizio e che abbia aderito a questa ritornare in servizio per questa emergenza, per questa necessità sanitaria. Quindi si riferisce a quelli che hanno risposto all'appello della Protezione Civile? Sì. A migliaia, sì, oltretutto? Sì, sì, mi sembra che hanno parlato di 300, credo, medici, credo. Sì, sì, ne cercavano qualche centinaio, hanno risposto, mi pare, 3.000 forse addirittura, un numero decisamente superiore. Sentiamo cosa dice il nostro giudice notaio. Non è lui, scuote la testa dietro, nascosto dalla mascherina oggi, tra l'altro, quindi è imperscrutabile davvero. Comunque Stefano effettivamente ha fatto bene a ricordare tutti coloro che hanno risposto a questo appello, mettendosi a disposizione del paese e delle aree più in emergenza del nostro paese. Stefano, grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Carlo, Laura, complimenti. Grazie Carlo, grazie. Dimmi. Volevo solamente ricordare che Ferrini, nell'articolo scritto da lui, fa un bel ragionamento dove dice che in Cina senza coronavirus muoiono 1,2 milioni di persone legate direttamente alla concentrazione di inquinanti atmosferici, ovvero la media è 3.300 decessi al giorno. Siccome con la risposta al virus si è visto che l'inquinamento è stato ridotto di un terzo, in questo modo, anche solamente riducendolo di un terzo, in teoria si sono potute salvare 1.100 persone al giorno, che sono molte di più di quelle che sono morte per coronavirus. Quindi è un ragionamento anche interessante quello che fa Ferrini in maniera molto precisa. Grazie Carlo per averlo ricordato. Noi diamo la linea adesso a GR24 e torniamo subito dopo per parlare, tra l'altro, di agriturismi che aprono le porte a coloro che sono in convalescenza dopo essere stati dimessi agli ospedali per ma corona. Non contagiosi, lo ricordiamo. Ma non contagiosi, chiaramente. A tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo tutti qua, tutti pronti per proseguire con la nostra giornata di Si può fare. Carlo, ma era oggi la giornata della poesia mondiale o era ieri? Mi confondo, ormai i giorni mi paiono un po' tutti simili, purtroppo. Credo fosse ieri, oggi la giornata mondiale dell'acqua. Ok. L'unica certezza è che ieri era il primo giorno di primavera. Eh no, è stato messo in discussione da molti ascoltatori che ci hanno scritto: no, però l'anno bisestile non era proprio ieri, ma il giorno prima. Insomma, qui. Ah, vedi. È difficilissimo allora niente, il calendario mondiale certezze. Delle giornate mondiali. Non lo so, l'avevo stampato una volta, non lo solo, devo ritirare non ci fuori. Sono più le mezze stagioni, non ci sono nemmeno più le stagioni piene. Beh, comunque, se qualcuno ha una sua poesia, visto che no, ormai noi siamo diventati appassionati di poesie, se qualcuno ha una sua piccola poesia, no, di poche righe magari, che vuole mandarcela o vuole leggercela, come ormai ci fa, no, il nostro dirigente scolastico ormai tutte le settimane, beh, potremmo anche dare spazio ai poeti, cosa dici? Un'idea. Sì, secondo me assolutamente sì, possiamo dare spazio a poeti, sia a poesie conosciute, edite, sia a poesie loro. Direi che giustamente rimaniamo su una certa brevità. E a proposito di questo, guarda, ti leggo una poesia brevissima, sempre della Szymborskaja, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa sì. Appunto con il professore, che poi abbiamo risentito ieri, e mi ha fatto venire voglia di andare di nuovo a leggerla. Mi sembra una poesia che oggi come oggi, che siamo spessissimo a lavarci le mani, quindi a guardare le nostre mani per almeno 2 minuti. Questa poesia si intitola La mano. 27 ossa, 35 muscoli, circa 2000 cellule nervose in ogni polpastrello delle nostre. È più che sufficiente per scrivere Mein Kampf o Winnie the Pooh. una poesia molto bella. Una poesia molto bella. E beh, se volete comunque scriverci o leggercene, come ha fatto Carlo, una, noi siamo a vostra disposizione. Adesso torniamo al... Ah, volevo dare anche un altro indizio, se ce la facciamo. Aspetta che recupero, certo, il, che ce la il foglio. Allora, vi ricordo appunto... Lo do io, guarda. Dai, vai. Il secondo indizio è che il nostro personaggio che stiamo cercando è rigoroso, quindi oltre ad essere solidale è anche rigoroso. Ci tenevo a dirlo perché, come vedete, d'ufficio gli indizi con più R sono assolutamente in capo a me. L'abbiamo fatta apposta, per metterti in difficoltà. Allora, quindi il personaggio della settimana è solidale e rigoroso. Il numero da comporre è 800-24-00-24 per rispondere, appunto, e dirci chi è il personaggio della settimana. Diamo il benvenuto a questo punto a un altro ospite che ci parlerà dell'iniziativa di cui dicevamo prima, di GR24, ovvero Andrea Strippoli, che è titolare dell'agriturismo Dolce Luna a Milano. È uno degli agriturismi di Campagna Amica che aprono le porte, si mettono a disposizione per accogliere le persone guarite dal coronavirus, dimesse dagli ospedali, ma che ancora necessitano di giorni di isolamento e di anche riposo. Buongiorno Strippoli. Buongiorno Laura, buongiorno Carlo e buongiorno a tutti i radioascoltatori. È così, ho detto bene, quindi la vostra è una... Hai detto benissimo, sì, hai fatto bene anche a precisare che gli ospiti che eventualmente sarebbero all'interno della nostra struttura sono comunque pazienti che sono guariti, quindi risultanti negativi ai tamponi, e devono sottostare comunque a una quarantena. E i nostri agriturismi mi hanno dato l'adesione ad ospitare questi ex pazienti, ex ammalati. Sì, come vi state attrezzando per farlo? Cioè, che cosa, no? Che cosa troveranno queste persone negli agriturismi? Beh, in una prima fase c'è stata comunque la disponibilità da parte di Massimo Grignani, che è il presidente di Terra Nostra, che è un'associazione degli agriturismi della Coldiretti, ad aprire le porte appunto dei nostri agriturismi alle persone che hanno necessità di fare questa quarantena. La disponibilità è stata accolta, ma ad oggi nessuna struttura è ancora attivato questa ricezione. Ma mi scusi, è una convalescenza, prego, giusto, più che una quarantena? Bravissimo. Assolutamente sì, è una... Perché se la chiamiamo quarantena, sennò poi le persone, sì, pensano che siano, sì, contagiosi. Assolutamente sì, però loro lo chiamano comunque un periodo nel quale si devono garantire, forse il termine esatto, Carlo, è quello che hai detto tu adesso, è una convalescenza, esatto. Convalescenza. Comunque gli agriturismi hanno tutti la possibilità, e come previsto dalla norma, devono avere una camera, e ogni ospite deve avere la sua camera, il suo bagno privato, e molte strutture come la nostra sarebbero disposte anche a riaprire le cucine per poter garantire comunque anche la ristorazione, perché deve avvenire comunque all'interno di ogni singola camera. Ma andando sul vil denaro, sarebbe una... si paga questo tipo di servizio? Noi avevamo dato la disponibilità e con la copertura delle spese, giusto un rimborso spese, perché comunque i nostri agriturismi sono tutti chiusi ormai da 3 settimane, come ristorazione, come camere, ultima adesso è stato l'ultimo decreto, il quale prevede che anche tutte le attività ricettive devono rimanere chiuse. Comunque da 3 settimane che nelle camere non avevamo ospiti. Certo. Sì, non è stato calcolato nulla, però era un rimborso spese, soltanto un rimborso spese, sì, rimborso spese, basta. Che tipo di risposta state ricevendo? Cioè, ci sono già richieste? No, richieste di persone che potrebbero venire all'interno delle nostre strutture, no. Abbiamo colto anche la richiesta di San Raffaele, che chiedevano delle camere, degli alloggi, abbiamo dato anche a loro la nostra disponibilità, però siamo tutti in attesa di sapere se dobbiamo partire, le modalità magari se sono un po' più restrittive. Noi all'interno, per esempio, della nostra struttura abbiamo già contattato delle aziende per fare comunque disinfettare le camere, le aree circostanti, perché comunque il bello dell'agriturismo, tra virgolette, se possiamo trovare questa cosa qui in questo momento, è che poi la Camera è comunque in un contesto di campagna, quindi non sei chiuso all'interno di una camera che può essere come quello dell'ospedale, quindi magari psicologicamente è una cosa un pelino più. Beh, è un po' il discorso che facevamo prima con il professor Ferrini, il fatto di guardare, no, verso il verde e di poter in qualche maniera godere di un panorama naturale aiuta anche, è ormai scientificamente provato, la guarigione, la ripresa, e comunque conforta il paziente, nel vostro caso non più appunto grave ma convalescente, quindi sicuramente debole. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io trovo che sia un'iniziativa straordinaria, trovo anche che siate coraggiosi tutto sommato nel proporla, nel senso vi sarete anche domandati è opportuno o no che io porti, no, in questo momento persone vicino a me, proprio come per paura di contagio, ecco. Io posso parlare per la mia realtà, noi una realtà che siamo, permettiamo che gli agriturismi, quindi gli operatori dell'agriturismo prima di essere tali sono comunque agricoltori, quindi aziende che da 20 anni, 30 anni fanno questa attività, che oggi il primo problema è stato quello di 3-4 settimane fa, garantire per esempio la fornitura dei mangimi ai bestiami e continuare con le maestranze sia per la lavorazione del terreno e per la raccolta, perché comunque noi facciamo parte di questa filiera che deve garantire l'alimentazione tramite appunto la coltivazione o l'allevamento. E il primis qual è stato? Se si fa, magari qualcuno dice no, hanno accolto delle persone del coronavirus, ma immediatamente c'è stata una risposta. In questo momento qui bisogna far veramente germinare quel seme che ognuno di noi ha all'interno, che è della solidarietà, al di là del, come hai detto tu prima, del dio denaro, bisogna andare oltre. E in questo momento chi ha questo germoglio deve, in qualsiasi forma, c'è chi può dare la sua, come si può dire, la sua struttura, chi può economicamente dando un contributo alle varie associazioni, ecco, facciamo germogliare questo seme. Mi sembrano delle parole stupende, Strippoli, veramente stupende, anche il fatto, anche la metafora del germoglio detta da un agricoltore mi sembra straordinaria, soprattutto mi sembra una buona notizia, perché abbiamo sentito spesso che dai giornali, dalle interviste, che i guariti vengono stigmatizzati perché le persone non gli parlano, perché dicono lui ha avuto il coronavirus, quindi anche semplicemente simbolicamente, perché ricordiamo che stiamo parlando di persone non contagiose, mi sembra un'ottima iniziativa, diciamo, anche per riniziare a rimetterci tutti insieme. Assolutamente sì, assolutamente sì, può essere magari un appello, ripeto, ad ognuno di fare arrivare quella goccia su questo seme in qualsiasi forma, ripeto. Grazie, può essere solo utile a tutti. Grazie a molte. Grazie Andrea Strippoli, titolare dell'agriturismo Dolce Luna a Milano. Abbiamo la viabilità. Si può fare. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Effetto primavera, ti starò vicino, ti guarderò, ti ascolterò, ti capirò, ti seguirò, ti abbraccerò, ti bacerò. Se pensate che sia amore, chiamatelo pure amore. Questa poesia è arrivata firmata Jack 27 aprile 2017, è una di quelle che ci avete scritto in questi ultimi minuti. Continuate pure, magari riusciremo poi a metterle anche su Facebook, sul nostro Facebook, vero Carlo? Che potrebbe essere così la bacheca delle poesie dei nostri ascoltatori per un qualche giorno. Certo che sì, molto volentieri. Allora, adesso dalla poesia andiamo alla musica, perché la musica non si ferma e si mette al servizio del paese. L'hashtag è proprio La musica non si ferma. Il nostro ospite è Luca Sammartino, che è l'ideatore di La musica non si ferma. Insomma, un po' di che cosa si tratta ce lo dice lui. Luca, buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Parla vicino alla cornetta, come avremmo detto un tempo, attenzione, perché altrimenti non ti sentiamo. Mi sentite adesso? Come avrebbe detto un tempo una mamma cattiva. Allora, la musica non si ferma, e questo sicuramente, la musica è una grande compagnia, è un grande, no, anche una grande consolazione in questi giorni, ciascuno è andato a ripescare magari dischi di un dischi, senti come sono antica. Vabbè, perché il vinile sta tornando in alla grande, vero. Non è mai morto, per fortuna oserei anche dire. Però per è anche fortuna. Il momento di scoprire qualcosa di nuovo, ed è anche un momento in cui si può andare a caccia di nuovi autori, nuovi cantanti, nuovi gruppi, no? Assolutamente, permettetemi di fare una piccolissima premessa: ideatore, ma in realtà co-ideatore, siamo diciamo almeno in quattro ideatori della musica non si ferma. Permettetemi di citare e salutare gli amici e compagni di viaggio Salvatore Imperio, Emanuele Proietti e Alexo Vitruviano, con i quali stiamo portando avanti insieme ai rispettivi progetti questa fantastica iniziativa. Nata appunto, come dicevi giustamente, anche per permettere al pubblico a casa, perché siamo tutti a casa, io tra l'altro vi parlo da Lodi, dove qua in provincia è partito più o meno tutto, purtroppo, appunto per permettere anche al pubblico di scoprire nuovi artisti, nuovi talenti che magari non si vedono spesso perché indipendenti, e quindi magari non li vediamo in TV o non li sentiamo spesso nelle radio principali, e insomma anche per permettere agli artisti di poter ricevere un sostegno da parte del pubblico, che può contribuire acquistando i loro dischi o facendo donazioni a loro o a enti benefici o ospedali scelti dall'artista. La cosiddetta scena indipendente, secondo me in questi giorni di balconi abbiamo sicuramente visto che gli italiani hanno molta voglia di cantare, ma diciamo sui gusti musicali siamo un po' fermi. Direi che il più giovane che abbiamo sentito cantare è, non so, è Rino Gaetano forse, Celentano, Battisti, ecco. Quindi forse la scena indipendente ha bisogno un po' di nuova linfa, abbiamo bisogno di sapere come va la scena indipendente. Ma allora, come va la scena indipendente? Dal mio personalissimo punto di vista, io parlo sia da musicista, anche giovane, dai, ho 25 anni, sia da ufficio stampa musicale. Hai 25 anni? Sì, tra l'altro. Ma sei giovanissimo, a sentirti parlare pensavo ne avessi 64. No, è perché praticamente non mi sveglio la domenica mattina così presto penso dall'asilo, per cui... Di la verità, non sei ancora andato a dormire, questa è... Più o meno sì, scherzi a parte, perché... È passato la notte a suonare? Non tanto perché ho il tunnel carpale, ho passato la notte però a rimuginare su un paio di cose che dobbiamo fare proprio per La musica non si ferma. Stiamo dormendo poco e lavorando tanto, ma per fortuna ci teniamo... occupati. Comunque la scena indipendente come è messa? Posto il fatto che meno male che si cantano ancora i vari Rino Gaetano, Celentano, Battisti, eccetera, eccetera, che sono pietre miliari e che secondo me si canteranno. Beh, figurati, io li adoro, sono pure della mia epoca, quindi ci mancherebbe altro. No, guarda, li adoro anche io, anche se non sono della mia epoca, e penso che dovrebbero adorarli un po' tutti, o perlomeno conoscerli e cantarli almeno una volta. Comunque la musica indipendente dal punto di vista musicale va benissimo, perché è piena di talenti davvero validi. Diciamo dal punto di vista rappresentativo o anche negli organi competenti, diciamo che siamo un po' invisibili. E questo è un altro degli obiettivi che ci siamo preposti con La musica non si ferma, ovvero cercare di riunire un po' gli addetti ai lavori della scena indipendente e gli artisti, anche per poi passato questo periodo dove ovviamente ci sono cose molto più importanti a cui pensare, insomma, magari far sentire anche la nostra voce, vederci riconosciuti un po', ma nel mondo della musica, come mi auguro sia una cosa che avvenga anche nel mondo dell'arte e della cultura in generale a livello indipendente, perché insomma è un lavoro anche questo. Sicuramente, sai cosa stavo pensando, no? Che a volte si dice, insomma, con un certo orgoglio di essere fuori dai circuiti, così, però in realtà dopo, oltre un certo limite, essere fuori dai grandi circuiti non va bene, cioè bisogna per forza uscirne, perché appunto se uno ha un messaggio vuole raggiungere le persone con il suo messaggio musicale o poetico, qualunque esso sia, quindi va bene la nicchia, va bene siamo tra di noi, però appunto usciamo per farci sentire, farci vedere. Mi sembra che il palcoscenico che voi vi siete scelti in questo momento sia il migliore, sicuramente, anche perché non ce ne sono altri, però, però ecco, siamo tutti lì dietro a leggere notizie, e magari tra una notizia e l'altra possiamo anche passare tra le 19, no? Com'è, quando è che si inizia? Tra le 19 e le 20 e 30. Adesso abbiamo spostato. Avete anticipato. Perché abbiamo avuto fortunatamente tantissime richieste e quindi abbiamo dovuto rivedere un attimino i piani, anche per permettere appunto al pubblico di esserci. Comunque sì, è un'iniziativa social. Ma come funzionano questi concerti, perdonami, nel senso che i musicisti, cioè o è un musicista da solo oppure sono musicisti che loro si incontrano e possono suonare insieme, oppure suonano addirittura ognuno alla casa propria, come funziona? Allora, praticamente sono esibizioni singole, questa è una direttiva che abbiamo dato subito alle band, assolutamente, perché nasce un po' anche sulla falsa riga, diciamo, del concetto di io resto a casa, quindi anche le band composte da 4-5 elementi, gli abbiamo detto, a meno che non siate, non so, fratelli, e quindi già vivete nella stessa casa, soltanto una persona, non spostatevi, non... Insomma, restiamo a casa, basta il cantante, anche voce chitarra, voce piano, ma voce... Se mi permetti una battuta, possiamo dire che anche il coronavirus non ama le band, perché già sono un po' discriminate le band e alla fin fine fra un talent e l'altro sono sempre cantanti singoli da soli che vincono, e anche in questo momento la band un po' perde. Sì, ma come dicevano i Queen, the show must go on, per cui giusto. Anche le band si sono reinventate, anche perché può capitare ogni tanto magari a qualche cantante o frontman di una band di trovarsi in situazioni dove magari deve fare da solo senza il resto dei compari, però diciamo nasce tutto dalle pagine Facebook degli artisti ai quali diamo le direttive per fare la diretta, eccetera, eccetera. E poi tutti noi con i nostri progetti, 0371 Music Press, Musica Italiana Emergente, Music.it, Smart Rise, si sono uniti i ragazzi di Off Topic, un sacco davvero di addetti ai lavori della scena indipendente. Facciamo da cassa di risonanza per queste dirette, ricondividendole su tutti i nostri canali per arrivare al pubblico più ampio possibile. Allora dai, l'appuntamento di oggi per le 18, quindi, comunque. Sì, sì. Benissimo. Sempre alle 18 tutti i giorni fino al 3 di aprile. E forse oltre, chi lo sa, qui stiamo già preparando il futuro, visto che stai in Lombardia, quindi sai che le ultime novità ci portano più avanti rispetto al 3 di aprile. No, per il dopo, se posso permettere di rubarvi un altro secondo, il piano malefico, diciamo, il progetto è quello appunto di creare una community dove raggruppare tutti gli addetti ai lavori con questa filosofia, tutti gli artisti con questa filosofia, e appunto da lì partire con altre iniziative comuni, ovviamente aperte a chiunque voglia sposare questo tipo di, insomma, di pensiero collaborativo, che pensiamo sia il modo migliore per poter garantire un futuro alla scena indipendente. Grazie Luca San Martino. La musica non si ferma. Qual è l'indirizzo della pagina preciso? L'indirizzo della pagina per partecipare è mieonline.it/la musica non si ferma. Memorizzate la musica. Perfetto. Non si ferma, e da lì risalite sicuramente a tutto, direi. Giusto. Che forse è più facile. Brava, che Laura. Allora Luca, grazie, buon proseguimento, buona musica a tutti. Diamo il benvenuto a un ascoltatore che vuole concorrere a indovinare il personaggio del giorno. È Giacomo dalla provincia di Genova. Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo lei chi è questo personaggio della settimana? Ah, penso che sia Vladimir Putin. Perché è solidale e rigoroso, secondo lei? Sì, io l'ho mandato quando era, dicevate solo che era solidale. Poi con rigoroso ho pensato che poteva potesse essere lo stesso. Lui, ecco. Beh, rigoroso direi che per Putin vale sempre, sì, ecco. Sì, forse sì, vale più di solidale. È anche riduttivo. Solidale, esatto. Perché comunque un colpo di telefono l'ha fatto. Perché è da uno come ah, lui. Va bene, va bene. Allora, non era lui, come va ci bene, dice il notaio imbavagliato, ma però la giustificazione è stata stupenda. Un colpo mi sembrava una giustificazione l'ha fatto. Da nonno che giustifica il proprio nipotino. Almeno un colpo di telefono in un anno l'ha fatto. Esatto. Vabbè, non pensiamo a quelli che non ce l'hanno fatto a sto punto. Esattamente, no? Direi che esatto. Grazie molte, grazie molte. Abbiamo anche un'altra ascoltatrice, già in linea è Roberta, da provincia di Frosinone, ma non è per concorrere, se ho ben capito. Roberta, buongiorno. Sì, buongiorno a voi che ci fate compagnia. Buongiorno a voi che ce la fate anche voi. Grazie. È la prima volta che chiamo per leggere una poesia. L'ho scritta ieri, che era la giornata della poesia, ed è dedicata a tutti quelli che hanno paura come me. Posso ce la leggerla? Legga, certo, come no, ci farà più molto. Certo che può leggerla. E arrivò la paura, il coraggio era lì ad attenderla, non si fece trovare impreparato e con la sua forza travolgente respinse la paura nel gorgo del liquido nichilista e trasformò l'isolamento in solitudine e condusse la ragione ad esplorare gli alveoli dell'anima e lì si celavano amore, gioia, verità. La ragione comprese che l'anima si può afferrare ed è lì da sempre che si nasconde la chiave dell'etica. Quando tutto sarà finito, la ragione abbraccerà l'anima e avremo un mondo migliore e molti avranno imparato a pregare. Grazie Roberta per aver condiviso con noi questa poesia, scritta non solo nel giorno della poesia, ma anche nei giorni dell'emergenza, no? Questo l'ha molto condizionata, chiaramente. Sì. Siamo tutti insieme, siamo tutti uguali, tutti impreparati di fronte a questa catastrofe. Però dobbiamo essere speranzosi e ottimisti, perché ce la faremo. Infatti, se mi permette, direi che la sua poesia è più che una poesia sulla paura, è una poesia sul coraggio, e quindi ne siamo molto contenti. Perché il coraggio non si fa trovare impreparato. Perché il coraggio quindi, ce lo dobbiamo dare tutti certo, insieme. Certo, certo, soprattutto per chi non ce l'ha fatta. E anche sì, certo. E niente, non ho altro da aggiungere. Grazie Roberta. Buon grazie. Lavoro a tutti. Buon grazie lavoro mille. Anche a lei, grazie. Grazie. Abbiamo una piccola pausa. Buona domenica. Adesso. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori. Carlo, stanno arrivando copiose le poesie, davvero. Non ci basteranno le pagine per scriverle tutte. Comunque, ci proveremo e ci fa molto piacere, insomma, questa partecipazione. Prometto che le leggerò tutte. E cercherò di farti, perché ne arrivano tante su WhatsApp, lì poi è difficile ritirarle fuori, ma insomma, se magari ci riuscite a mandare le stesse poesie anche via mail, ci facilitate, perché WhatsApp è di tutti qua a Radio 24. Come sapete è lo stesso per tutte le trasmissioni, quindi poi dopo andare a ripescare tutte le poesie qui non è facilissimo, ma insomma, se ce le mandate via mail... Il vantaggio... Il vantaggio è anche quello che tu mandi una poesia la domenica mattina e poi te la senti leggere il mercoledì da Cruciani alla Zanzara. Beh, sì, sì. Non so se è esattamente quello che farà Giuseppe quando tornerà in studio, mettersi a leggere le poesie. Va bene, allora adesso andiamo a parlare di un'altra, di una novità che arriva in televisione su Rai Yo-Yo, questo a proposito di bambini e ragazzi a casa. Un cartone animato, Cartoon Able, poi ci spiegheranno cosa significa e perché è Able, si intitola Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa e ce ne parla Andrea Martini, che è l'ideatore di questo cartone animato. Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi facciamo sentire tra un istante qualche, no, un piccolo passaggio, giusto per... Però, certo. Cos'è Cartoonable? Tanto così gli ascoltatori si preparano e capiranno meglio la pillola che li proporremo. Sì, Cartoonable è in realtà una tecnica, è comunque è una metodologia che abbiamo elaborato per rendere accessibile a tutti i bambini, veramente tutti, i cartoni animati, in questo caso un prodotto che solitamente viene definito per tutti, ma non lo è, perché tanti bambini con difficoltà sensoriali non possono godere di un cartone animato. E allora noi abbiamo realizzato questo prodotto, questo cartone, che mette insieme tutti quanti i bambini, quelli normodotati e quelli con difficoltà sensoriali, siano ciechi, ipovedenti, sordi o anche autistici. Quindi sia godibile per tutti, di intrattenimento per tutti, ma non solo, che a sua volta crei una comunità, insomma, tra tutti i bambini. Esattamente, infatti la parola tutti, soprattutto in questo momento, dove sentivo ieri Carlo che diceva che è difficile distogliere l'attenzione dal problema che ci circonda, dal coronavirus, in questo momento la parola tutti riunisce, mette insieme le famiglie, mette insieme i bambini normodotati e anche quelli con difficoltà sensoriali, appunto tutti seduti davanti al televisore, davanti a Rai Yo-Yo. E senti, a sentire quello che a sentire, a vedere, a seconda ognuno come può, insomma, come può. Questo cartone, sentiamo. Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini. Guarda Caramella, è arrivata Zilia, vuol dire che è ora di andare nel magiregno da Zappa Corta. I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano insieme la formula magica. Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone! Lampadino e Caramella vengono trasportati da un vortice magico nel magiregno, dove li aspetta il loro amico Zampacorta. Lui ha una zampina più corta delle altre, ma nessuno ci fa mai caso. Ciao Caramella! Ciao Lampadino! Bene arrivati! E ovviamente tutto è accompagnato, no, Andrea, da una descrizione anche col linguaggio dei segni, quindi con i dialoghi sono godibili in tutti i modi. Sì, ci sono una serie di accorgimenti che noi abbiamo messo in campo e la difficoltà è stata proprio quella di tenere tutto quanto insieme in un'immagine sullo schermo e farlo diventare godibile, farlo diventare assolutamente, come dire, parte di un insieme. E ci sono ovviamente degli attori LIS, un meraviglioso gruppo di attori LIS, o meglio di attori sordi che recita nella lingua italiana dei segni, nella LIS, all'interno dell'immagine, con i costumi dei personaggi, quindi i personaggi del cartone si ritrovano direttamente nel balloon, e quindi anche con un lavoro appunto di costumi, di un'accademia di arte e spettacolo che ha creato questi costumi, e tutto un insieme di lavori che sono stati fatti e di professionalità che hanno in qualche modo contribuito per la realizzazione di questo progetto. Senti, devo farti una domanda da sceneggiatore assolutamente, perché ho visto che in questo cartone animato ovviamente si è avvalso di un pool di esperti, anche insegnanti, educatori, psicologi, medici, e facendo lo sceneggiatore e sapendo già le difficoltà di scrivere con tutti i paletti, perché la rete vuole quella durata lì, perché loro lo vogliono in quell'altro modo, perché bisogna parlare di quella storia, l'attore si lamenta per le sue battute, se in più ci aggiungiamo anche insegnanti, educatori, psicologi e medici, io voglio per un mezzo minuto che tu mi fai immaginare, mi fai vedere questa riunione di sceneggiatura fra tutte queste persone, che cosa dice ognuno. Mezzo minuto non basta, Carlo, ci vorrebbe una mezza giornata, è stato veramente, hai centrato. Hai ragione, infatti dopo ti richiamerò dopo. Volentieri, molto volentieri. Hai centrato esattamente, diciamo, ovviamente io qui vorrei giustamente parlare delle cose belle, ma anche questo è un aspetto molto divertente e particolare, perché hai centrato la problematica principale, perché tutto, come sai, da sceneggiatore, tutto parte da una sceneggiatura. E questo prodotto, soprattutto questo progetto, questo cartone, si basa molto sulla scrittura, perché per i bambini non vedenti, per i bambini ovviamente ciechi, è necessario che sia quasi un racconto, un audioguida, e quindi però non deve essere troppo come dire, dichiarata, deve essere una cosa sottile, ecco la partecipazione di non alcuni, troppo didascalico, infatti guarda, bravo, sempre da sceneggiatore, esatto. Io apprezzo anche semplicemente nei 15 secondi che abbiamo fatto sentire, che se tu nella formula magica includi il fatto di dire foglia verde, tronco marrone, io sto dicendo in realtà semplicemente una battuta che è una formula magica, sì. Però sto anche descrivendo. Esattamente, infatti viaggiamo molto per immagini, soprattutto parole che creano immagine, e questa è una delle, diciamo, degli espedienti della tecnica del cartoon able, ne ha altri ovviamente, perché la difficoltà, come vi raccontavo, era proprio quella di mettere insieme tante difficoltà, chiamiamole così, a cominciare da quella di scrivere per bambini normodotati, perché come ben sai questa è una difficoltà importante, come raccontavi te. Racconto soltanto questo piccolo aneddoto, se volete, e cioè una riunione fatta, certo, con il gruppo appunto di attori sordi della LIS, meravigliosi, Deborah, Nicola e tutti quanti i responsabili di Ice Made, che è il gruppo di lavoro che ci ha aiutato, perché tu parlavi ovviamente di una serie di esperti, quindi ora, se volete, vi racconto come è nata tutta quanta l'idea. E ovviamente loro focalizzavano sulla loro problematica e noi cercavamo in continuazione invece di rifocalizzare sul concetto di tutti quanti, e quindi c'era un continuo rimbalzare di situazioni tra il mondo dei sordi e invece il mondo di tutti quanti, di tutti i bambini che devono godere di questo cartone. Io trovo che, vabbè, tanto Carlo, tu ovviamente sei molto più esperto di me su queste cose, però a proposito degli espedienti di cui parlavate prima, ci sono molti espedienti, ho visto anche sui tipi di colori scelti, sì, e le musiche scelte, sì, perché possano anche trasmettere ad esempio tranquillità e attivare delle aree del cervello legate al piacere. Sono degli studi, sì, straordinari. Veramente io non avevo idea che si potesse mettere insieme tutto questo in un cartone. Allora, guardi, io vorrei dire soltanto questo. Allora, il progetto parte da un'idea di una casa editrice di meravigliose donne di Rieti, Punti di Vista, che sviluppano prodotti per bambini con difficoltà sensoriali, e ci hanno portato questa idea, questa sfida. E ovviamente, siccome a noi le sfide piacciono, a noi di Animundi, io e Raffaele Bostone, il mio socio, sono trentina d'anni che facciamo questo lavoro, e 20 che esiste Animundi, e abbiamo accettato, colto la sfida e l'abbiamo aumentata, implementata, dicendo facciamo un prodotto che sia per tutti i bambini, ovviamente non per bambini con difficoltà sensoriali, ma veramente per tutti. E la sfida ancora di più è stata accettata dalla RAI, che in qualche modo Rai Ragazzi, il direttore Luca Milano, che l'ha portata sulle Rai. E quindi la cosa meravigliosa è proprio questa qui, di essere riusciti a fare un prodotto per tutti i bambini che andrà su, che è liberamente visibile da tutti quanti. La musica è uno degli aspetti che mi stavi appunto chiedendo, ed è, diciamo, un aspetto effettivamente molto importante, perché la musica è una seconda colonna, cioè la colonna sonora è una seconda linea di racconto, e quindi devi avvolgere. Sono state realizzate più di 30 linee melodiche per 20 episodi di cartone animato, e abbiamo un compositore meraviglioso che si chiama Alfredo Sirica, che è un ragazzo molto molto giovane, bravissimo, che le ha sviluppate con una passione enorme, raccontando a sua volta, come fosse un'altra sceneggiatura, tutti quanti i passaggi di questa storia, di queste storie. È bellissimo, e si potrà vedere in 20 puntate, giusto? Da domenica 29 marzo alle 16:50, come dicevamo, su Rai YoYo. Giusto, allora ci salutiamo, esatto, e ci diamo appuntamento tutti quanti davanti allo schermo il 29 di marzo. Grazie ancora, Andrea. Grazie Martini. Grazie Andrea. Grazie. Grazie Andrea. Grazie, buon lavoro. Bellissima iniziativa, grazie. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. Ci stiamo avviando verso la fine di questa puntata di Si può fare. Piovono copiose ancora le poesie che cercheremo ovviamente, come dicevamo, di pubblicare tutte su Facebook. Carlo, io darei il terzo indizio, così che magari qualche ascoltatore riesce ancora a portarsi a casa i libri. Mi sembra correttissimo, ne hai facoltà. Allora, il terzo indizio per indovinare il personaggio della settimana è: ha portato dei doni. Quindi è solidale, è rigoroso e ha portato dei doni. Questo è il terzo indizio. E diamo il benvenuto, mentre voi chiamate all'824 0024, a Eva Alessi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Responsabile buongiorno. Consumi sostenibili e risorse naturali di WWF Italia, WWF Italia, al quale attribuiamo questa settimana il premio L'altro pianeta, per un'iniziativa in particolare tra le tante che hanno varato in questi giorni, ovvero gli Eco Tips, un palinsesto culturale su natura e sostenibilità per grandi e piccoli. Insomma, si impara e si impara anche in questi giorni, no? Anzi, forse ancora di più in questi giorni, quanto è importante la natura, quanto ci avvicina la natura anche dal terrazzo di casa nostra. Esatto, la natura deve funzionare come antidoto, diciamo, alla noia che è dovuta alla reclusione forzata. In questo momento abbiamo il tempo, per esempio, per diventare degli esperti di sostenibilità, approfondendo per esempio meglio tutte le strategie quotidiane per la raccolta differenziata, per fare acquisti a chilometro zero, per cucinare con ingredienti freschi invece di utilizzare i piatti spesso pronti che utilizziamo quando andiamo super di corsa, e trasformare anche il momento del cucinare in un momento bello di convivialità. E così i ragazzi, i bambini, anche affacciati alle finestre, possono guardare la natura, approfondire, diventare anche degli esperti di meteorologia, degli esperti di botanica, degli esperti di uccelli, di canti, di insetti, e quindi usare questo tempo, anche stando a casa, per in maniera costruttiva. E per imparare anche che la natura fuori non si ferma, e anche noi prima o poi torneremo fuori e potremo godere della bellezza. Allora, come ci possiamo... Senta, ma sì, ho... Carlo, vai. No, è una domanda brevissima, chiedo scusa. Ho letto di questo diario della natura dalla finestra, che ho trovato sì, molto bello. Volevo chiedere se ci dava alcuni consigli, per esempio per chi ha una finestra sul cortile interno di un palazzo di Milano, o insomma per chi non ha la fortuna di avere davanti dei campi o di poter vedere chissà quali animali. Però ci stiamo accorgendo che anche in città ci sono animali. Se ci dà dei consigli da tutte le finestre, che cosa si può vedere? Da tutte le finestre si può vedere qualcosa, basta avere l'occhio giusto per individuarle, quindi da qualunque finestra fuori la natura, soprattutto in questo momento in cui le città sono ferme, c'è silenzio, si possono imparare a riconoscere i canti degli uccelli. È arrivata la primavera, arrivano gli uccelli migratori, quindi dalla nostra finestra possiamo vedere veramente tantissime cose, solo che non siamo abituati a vederle. Questo diario della natura, e questo diario dalla finestra che vuol guardare proprio la natura, ci insegna a guardarla, e una volta che l'abbiamo vista possiamo fare una foto e caricarla su questo sito che si chiama iNaturalist, che raccoglierà tutte le segnalazioni su uccelli, insetti, piante spontanee, tutto quello che possiamo vedere e ascoltare dai nostri balconi, e quindi è una grande operazione di scienza fatta dai cittadini proprio per imparare ad osservare. Sì, tra l'altro può essere anche il risultato di questa grande operazione di scienza fatta dai cittadini, può essere anche molto utile in generale, perché poi avremo una mappa magari anche un po' più dettagliata di quello che c'è nelle nostre città. Esattamente, esattamente, questa è proprio la finalità esatta di questi percorsi di conoscenza fatta dai cittadini, quelli di avere una mappatura di tutte le specie, sia animali, sia botaniche, che popolano le nostre città. E quindi tutti alla finestra a guardare, a osservare e a segnalare. Molto, molto bello e anche molto divertente, molto istruttivo, e peraltro va bene per tutte le età, bambini, adulti, per tutte le famiglie, comunque queste siano composte. Eh sì, sicuramente. Io non so, dalla mia finestra spesso vedo e sento dei pappagallini, credo che ormai siano diffusi, no, ovunque in tutta Italia. Sì, questi sono una specie nuova, una specie aliena. Infatti però anni fa non li avrei visti, adesso invece ci sono. Sono diventati molto molto numerosi, hanno occupato diciamo una nicchia ecologica che era rimasta vuota e si sono diffusi e popolano ormai in maniera costante e diffusissima tutte le nostre città. Io vivo a Roma e quindi Roma è piena, peraltro sono due diverse specie, quindi anche quelle possono essere comunque segnalate. E come faccio a riconoscerle adesso, per esempio, per curiosità? Insomma, hanno delle caratteristiche diverse, uno ha il collare, una riga sotto il collo più scura, l'altra invece non ce l'ha, sono comunque tutte e due verdi, due sfumature di verde diverse e quindi comunque potete vederle. Una ha questa riga che è inconfondibile, quella è il parrocchetto dal collare. Il parrocchetto dal collare, benissimo, va bene. Allora, partecipiamo numerosi a questa iniziativa del WWF, ci regalerà alla fine anche una mappa degli animali in città, nuovi e vecchi che siano, nuovi appena arrivati, insomma nuovi insediati come i pappagallini. Grazie, grazie molte Eva Lessi, responsabile consumi sostenibili e risorse naturali di WWF Italia. Vi ricordo, l'iniziativa è quella degli Eco Tips, quindi no, partecipiamo. Io oggi pomeriggio mi metto alla finestra, tempo permettendo, perché qua sta per arrivare la pioggia, mi sa che scompariranno anche i pappagallini. Carlo, invece io vorrei dare il benvenuto a una... Ma ci saranno altri animali, ci saranno altre cose da scoprire con la pioggia. Ci proverò, tirerò fuori anche il binocolo del nonno, da qualche parte ci deve essere, l'ho visto. Infatti volevo consigliare al WWF in qualche modo di farci arrivare dei binocoli, perché non credo che nel nuovo decreto Conte siano fra i beni essenziali, e quindi se uno non ce l'ha il binocolo è un problema. Eh beh, ma ci sarà qualche tutorial su internet sicuramente, come fare con i vecchi occhiali della nonna un binocolo, un cannocchiale, qualcosa. Abbiamo una concorrente per il nostro quiz che è Elisa da Bologna. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, ciao Elisa, voce giovane e fresca, quanti anni hai? 22, mi ascolta sempre, grazie. Una gran compagnia. Grazie. Allora Elisa, grazie mille. Secondo te chi è il personaggio della settimana? Io avevo pensato alla Cina perché ho sentito che ha inviato mascherine, respiratori e personale sanitario, nonostante noi li avessimo stigmatizzati all'inizio di questa storia, e quindi ho pensato subito a loro. Ok, quindi beh sì, ci sono, solidale e rigoroso, ha portato dei doni. Vediamo cosa dice. Wow. Allora, hai indovinato perché te l'ha passata, a dire il vero. Se posso... Vabbè, immaginavo, aver sentito gli altri indizi dopo anche, insomma. No, te l'ha passata perché in realtà, vero Carlo, noi avevamo scelto il gruppo dei medici arrivati dalla Cina. Non proprio la Cina, sì, tu però... Cur, io... però... Io trovo la risposta migliorativa, nel senso che è ancora meglio, perché è giusto, perché ha aggiunto un pezzo dicendo è la Cina, perché noi l'abbiamo stigmatizzata e loro come rispondono e dicono vi prestiamo i nostri medici, quindi l'ho trovato migliorativo come personaggio e poi tra l'altro è semplicemente un allargare, nel senso che anche il nostro personaggio era il gruppo di cinesi che sono venuti, ma lo allarghiamo a tutta la Cina e ne siamo molto molto contenti. Bene. Grazie. Allora Elisa, sicuramente riceverai dei libri, perché come sai i biglietti non ne possiamo dare in questo momento per visitare il MUDEC come facciamo di solito. Verrai ricontattata dal centralino e lì appunto prenderete tutti gli accordi necessari. Grazie molte Elisa. Grazie, buona domenica. Buona domenica anche a te. Abbiamo altre poesie, Carlo, ce la facciamo a leggerne almeno una? Maria Teresa ce la legge lei dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io abito a Treviso, ma sono genovese. Mm-hmm. Intanto, piacere di conoscerla, signora. Piacere nostro. Allora, io ho scritto qualche libretto di poesie, un 150 ne ho. Ho pensato di leggerne una. Di poesie dedicata... o di libri? Sì, poesie. Ho pensato di leggerne una dedicata a mio padre. 150 libri, dicevo, porca miseria, è la Dickinson. Sì, scrivo volentieri. Ho pensato che in questo periodo tante famiglie hanno perso i loro cari. E allora volevo leggervi questa che ho dedicato a mio padre. Allora si intitola naturalmente A mio padre. Ascoltando il cadere dei giorni, le labbra del tempo si dissetano ai discorsi dell'acqua che corre indaffarata, disperdendosi e riunendosi in larghe pozze. Narrano di una città lontana, dove una bambina, un suono, una mano, cercano nella memoria moltiplicata da specchi un uomo e un'unica carezza, avvolta da parole che avevano occhi come finestre. Dalla mia stanza che si restringe rimango lo specchio di me e tendo la mano verso quell'uomo e quell'unica carezza. Grazie Maria Teresa. Io direi, prego, Carlo, di chiudere, no, con questa poesia, con questo ricordo. Certo, e che sì. Dedicarlo, appunto. E ringraziamo. E ringraziare certamente Maria Teresa. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione di questa puntata: Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani, Andrea Piana, Carmelo Lauricella. Carlo, ci risentiamo la settimana prossima da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto. E ciao da Carlo Gabardini. Ci sentiamo assolutamente sabato e domenica prossima alle 8:30 su Radio 24.